parlo da studentessa universitaria e penso che ci stiano togliendo la libertà di affacciarci sul mondo a noi studenti universitari. State parlando del nulla. State parlando di questo grande argomento che è il coronavirus, i provvedimenti sanitari, le varie cose, ma sono scomparse le notizie, è scomparsa l'attualità, sono scomparse notizie dal mondo, informazioni utili per i cittadini, è scomparso tutto. State demolendo l'informazione. In questo momento, fino ad ora, la seconda ondata è inferiore alla prima, perché i ricoverati in terapia intensiva sono decisamente più bassi. La prima non vedevamo tutti questi contagiati perché non li testavamo. Ciao! Allora, primo punto, il tema del togliere la libertà di affacciarsi sul mondo agli studenti universitari che devono fare tutto da casa, anche loro, o quasi tutto da casa. Vale anche ovviamente per gli studenti delle superiori che in alcune regioni ormai sono solamente in didattica a distanza. Sì, sono d'accordo. Ieri nella decisione di varare il lockdown il presidente francese Macron ha annunciato che resteranno aperte le scuole, resteranno aperti anche i licei, resteranno aperte per quanto possibile ovviamente anche le università. È un grande tema, ci arriveremo tra poco perché poi ho trovato un pezzo molto interessante sul Corriere della Sera sui danni che porta la chiusura delle scuole o in questo caso una didattica a distanza troppo estesa. All'ascoltatore che dice che stiamo parlando del nulla, dico vabbè, oltre al fatto che abbiamo appena parlato dello scontro tra Erdogan e Macron, dico anche questo. Non mi pare il nulla, nel senso che l'impatto che questa vicenda sta avendo su tutto il pianeta, anche dal punto di vista economico e dal punto di vista sociale, signori, è uno spartiacque pazzesco. È uno spartiacque pazzesco. E questo è un punto da tenere presente che è fondamentale, a prescindere da quello che sta succedendo nei pronto soccorso adesso, dalle tensioni, dalle sofferenze. Poi possiamo ragionare infinitamente su quanto ci sia un'infodemia, come qualcuno dice, ossia una pandemia portata dai media. E però l'impatto che sta avendo nelle decisioni dei governi, in quello che succede praticamente nelle nostre vite, è enorme. C'è un prima e c'è un dopo. Dal punto di vista economico, dal punto di vista degli investimenti, dal punto di vista delle scelte dei governi, dell'ingresso dei governi nell'economia, è gigantesca questa cosa. Quindi stiamo raccontando un pezzo di storia, magari a volte un po' nervosamente, un po' con qualche eccesso, sono perfettamente d'accordo, però questo è. L'ondata inferiore alla prima, io non so dove la veda l'ascoltatore, che immagino sia un medico, un operatore sanitario, probabilmente nel suo ospedale. I racconti che ci arrivano da altri ospedali sono diversi. Certo, sì, meno persone in terapia intensiva, ma crescono del 10% al giorno, più o meno 9% al giorno. Ieri sono stati 125 in più, quindi elementi di preoccupazione ce ne sono, mi pare. Giovedì 29 ottobre, le 7:24 minuti e 30 secondi, è la seconda parte di 24 mattino, quella dedicata alla rassegna stampa, con i titoli principali dei giornali ovviamente dedicati un po' a questo. La paura dell'Europa è il titolo della Repubblica. Lockdown europeo, ecco il piano di Bruxelles, è il titolo della Stampa. Nelle chiusure di Francia e Germania, quello del Corriere della Sera. Piano per il lockdown morbido, di questo parla il Messaggero. Basta bugie, il titolo del giornale. Il modello Italia, ultimi per aiuti e tracciamento, vaccini a dicembre, l'Europa smentisce Conte. Esposizione universale, il titolo del Manifesto, con una foto dell'attore Eiffel con una sola persona che cammina nella piazza. Scenario lockdown già per mezza Italia, il titolo del Fatto Quotidiano. Sui ristori, la verità, i soldi di Conte sono come i carri armati di Mussolini, cioè non ci sono, perché mancano centinaia di misure attuative. Un uomo solo allo sbando è il gioco di parole che sceglie Libero parlando di Conte, che definisce abbandonato da tutti. Nell'Europa torna il lockdown, è il titolo di Avvenire. Il Sole 24 Ore si dedica alle borse. L'Europa trema, le borse tracollano. Iniziamo come sempre in questa parte da qualcosa di diverso e iniziamo da qualcosa che ci parla di una vicenda della quale ci siamo occupati spesso e che però in questo caso, se volete, ha più a che fare dolorosamente con l'animo umano, con il come ci comportiamo, con l'opportunismo, che con la vicenda in sé. E la vicenda è quella di Luca Palamara e dell'Associazione Nazionale Magistrati, lo scandalo che ha travolto. Il Giornale presenta una gustosissima pagina, pagina 14, nella quale, firmata da Luca Fazzo, nella quale non si fanno nomi, e però si riportano i messaggi nella chat, arrivati in chat a Luca Palamara, quando il 29 maggio 2019, quando per la prima volta sui giornali viene rivelata l'esistenza dell'indagine contro di lui. Sono 180 messaggi e sono tutti messaggi di solidarietà di altri magistrati che poi ovviamente dopo sono spariti completamente. Ci sono casi eclatanti, racconta Fazzo, come il presidente di tribunale che scrive: ti sono umanamente vicino, le notizie a orologeria quasi mai sono casuali, sono sicuro che andrà tutto bene. Beh, è lo stesso giudice che qualche mese dopo tuonerà: Palamara deve farsi da parte. E ancora, la macchina del fango è sempre pronta quando devono far fuori i migliori, è dura, ma ne uscirai a testa alta. Ci sono sprazzi, dice Fazzo, quasi lirici. Richiama tutte le forze e le energie che ritenevi di aver perso. Affronta il nuovo scenario, recita il ruolo. Cerca di interpretarlo in armonia con la tua essenza. Credi nel tuo futuro. Esercita la mente. Mantieni l'identità. Più concreta la dirigente di una sezione meridionale dell'Associazione Magistrati. Sono grandi carognate. Questo è pagina 14 del Giornale e Luca Fazzo ci racconta che tutta gente questa che scriveva Palamara, grandi messaggi di solidarietà, che adesso è sparita completamente o addirittura gli ha voltato le spalle. Un po' a testimonianza di quello che dicevamo, ossia che colpito Palamara, poi la vicenda è un po', no, si sta cercando di tenerla un po' sotto traccia. Vedremo come andranno le cose sul fronte dei giudici. Intanto a Milano fa discutere la delibera per il regolamento della qualità dell'aria. Ne era uscito già qualche dettaglio nei mesi scorsi, eravamo in epoca pre-Covid se non vado errato, e che adesso torna a far discutere. Perché? Perché sarà all'esame del Consiglio Comunale lunedì e prevede questo: dal prossimo 1 gennaio fumare sarà vietato alle fermate dei mezzi pubblici nel raggio di 10 metri, nei parchi, nelle aree attrezzate per gioco, sport e attività per bambini, nelle aree cani, sugli spalti delle strutture sportive, quindi negli stadi, e perfino nei cimiteri, dove finora nemmeno la vicinanza con le care salme, racconta Giannino della Frattina sempre sul Giornale, ha dissuaso i tabagisti a rinunciare a una bella bionda. E dunque è molto probabile che questo venga approvato. È un provvedimento che ha un duplice significato, spiega l'assessore alla mobilità Marco Granelli, perché aiuta a ridurre il PM10, le particelle inquinanti che sono più nocive per i polmoni, ma fa anche un'opera di prevenzione della salute. Gli ricorda Giannino della Frattina però che il PM10... il PM10 prodotto dalle sigarette è una minima parte rispetto a una metropoli ingolfata dal traffico, industrie e caldaie non sempre ecologiche. È un po' azzardato, dice, ricordarlo all'assessore. Meno azzardato è ricordare all'assessore che 8 edifici pubblici sono ancora riscaldati a gasolio, tanto per fare un esempio. Per chiudere con questa parte con un'altra mossa di Eike Schmidt, il direttore degli Uffizi, uno dei più grandi musei, uno dei più importanti musei italiani, che fa un'altra mossa dopo quella, ve la ricordate, quella di Chiara Ferragni, che l'ha invitata, ha fatto discutere tantissimo. Adesso ne fa un'altra che farà discutere quantomeno il mondo della cultura. Decide di portare i fumetti agli Uffizi. Lo racconta il Corriere della Sera, pagina 24, con Marco Gasperetti. Per la prima volta nella storia cinquecentenaria degli Uffizi, la blasonata galleria inizierà una collaborazione con Lucca Comics and Games, la rassegna di fumetti più seguita in Europa. Strisce e capolavori? Certo, dice Smith, perché molte sono le analogie tra fumetti e dipinti. Gli Uffizi, racconta, sono pieni di esseri ibridi, deformi, mostri grotteschi, creature spaventose, demoni e similari. Smith ha appena aperto un percorso intitolato Mostri tra statue e capolavori sublimi e allo stesso tempo rabbrividenti. E dunque, manga, supereroi e perfino il genere horror possono entrare qua. Chi lo accusa di colpire, no, in qualche modo la cultura alta, e di fare una contaminazione eccessiva, Schmidt risponde: nell'arte bisogna, con le parole di Gustav Mahler, il grande compositore, nell'arte bisogna tenere vivo l'incendio, non adorare le fiamme. Chi parla di sacralità dei musei vuole venerare le ceneri. Noi vogliamo invece tenere vivo il fuoco dell'entusiasmo, facendo dialogare grandi capolavori e arte popolare. Una pausa. Spezia, hai detto 129 in più? Ah, ma non siamo più 60 milioni? Siamo diventati 6-7 mila? Oh, boh. Così, allora, perché c'è preoccupazione a livello sanitario, facciamo fallire ancora il paese, facciamo chiudere l'attività, facciamo che i piccoli imprenditori si impiccano. Complimenti. Scusate, ma quando mai ho detto una cosa di questo genere? Ma guarda che è incredibile, Sottolineare il fatto che c'è un problema sanitario non vuol dire che io pensi che debba chiudere tutto, eh? Vabbè, quello lo stabilirà, allora, questa cosa la stabiliranno sicuramente le autorità sanitarie. Ok, io non... cosa posso dire? Questa cosa non l'ho mai detta, mai nemmeno pensata. E poi, vabbè, i 126 in terapia intensiva, le terapie intensive sono poche, quindi non è che siamo 5 o 6 mila, 126 in terapia intensiva, 1000 ricoverati in più, ricoverati, ok? Quindi, ragazzi, il problema c'è, poi se vogliamo nascondercelo fate come volete. Il tema della scuola, come vi dicevo, qua i giornali sono dominati ovviamente da quello che succede in Francia e in Germania, non proprio due paesucoli che sono poco attenti alle questioni economiche e che decidono il primo per un lockdown, il secondo per un lockdown leggero, più leggero naturalmente, nel quale per esempio vengono tenuti aperti i negozi, ovviamente vanno avanti i servizi essenziali anche in Francia, in alcuni settori si può continuare a lavorare, paesi che però decidono di tenere aperte le scuole, mentre invece la giornata di ieri ha visto arrivare la notizia, anche questo lo trovate un po' sui giornali, un po' dappertutto, della chiusura delle scuole in Puglia, tranne le materne. Una decisione che era stata già presa da altre regioni, pensiamo alla Campania per esempio. Ebbene, il tema della scuola in parte ritorna per esempio in questo pezzo di Gianna Fregonara e Orso Lariva a pagina 13 del Corriere della Sera, il quale fa un po' i conti, questo pezzo, su quanto costa lo stop della scuola, il costo futuro del lockdown per chi studia. In un anno 900 euro in meno di stipendio, non è... non è poco, non è tanto, giudicate voi, e però il tema è il buco formativo che arriva a questi ragazzi. A fare i conti ci hanno pensato il direttore della Fondazione Agnelli Andrea Gavosto e la ricercatrice Barbara Romano, riprendendo uno studio della Banca Mondiale basato sul postulato che ogni anno di istruzione in più aumenti le prospettive di guadagno future di uno studente del 10%, e viceversa hanno calcolato che il tempo di scuola perso durante i 3 mesi e mezzo di lockdown della scorsa primavera potrebbe tradursi in una perdita di oltre 21.000 euro nell'arco della vita lavorativa, con una decurtazione annua dello stipendio di quasi 900 euro all'inizio della carriera. Si tratta di stime approssimative, ma anche chi fa calcoli diversi, come il sito Roars, che ha rifatto i conti, non arriva a mettere in dubbio il rischio educativo delle lezioni al computer. Viene da chiedersi che fine faranno gli impegni presi dal nostro paese per raggiungere il traguardo del 40% di giovani laureati. E c'è un altro fronte, il rischio è questo. Secondo gli ultimi dati Eurostat, nel 2019 in Italia c'erano 561.000 early school leavers. Chi sono? Giovani che hanno lasciato la scuola prima di aver raggiunto il diploma. Il rischio, se le lezioni a distanza diventeranno la modalità prevalente, è che questa emorragia aumenti. In che situazione siamo dal punto di vista della parte sanitaria della crisi? C'è innanzitutto un po' di racconto dal territorio. Prendo per la giornata di oggi quello di Roberto Sculli da Genova sulla Stampa, pagina 5, che ci dice questo: i due pronto soccorso principali di Genova, il San Martino e il Galliera, che nel giro di nemmeno 12 ore alzano alternativamente bandiera bianca, iniziando a dirottare le ambulanze verso altri due presidi cittadini. Attese in barella che spesso si fanno infinite, in media 70 ore per avere un posto in reparto, con un caso limite di 200 ore. 200 ore, parliamo a occhio di 5-6 giorni. E il blocco degli interventi chirurgici programmati, eccetto gli oncologici di alta specialità e giudicati non rinviabili dai medici. L'onda del Covid non si ferma e il sistema sanitario si avvicina al suo limite, cercando di ampliare la dotazione di posti letto dedicati ai pazienti malati di coronavirus. Preziosa la pagina del Sole 24 Ore, che è pagina 8, che mette insieme una serie di firme dal territorio: Barbara Ganz, Filomena Greco, Sara Monaci, Silvia Pieraccini, Vincenzo Rutigliano, Ilaria Vesentini e Vera Viola, che vanno proprio nel dettaglio di come stanno andando le cose nei pronto soccorso, nei servizi territoriali. Pronto soccorso e medici di base, il grande ingorgo della lotta al virus. E dunque c'è l'area vesuviana, come sapete, con una densità demografica altissima, gli ospedali presi d'assalto. In queste condizioni, dicono gli operatori, saltano tutti i protocolli e le precauzioni. Molti medici sono stati contagiati. Del resto, denunciano dal Covid Center di Bosco Reale, manca persino una cabina di decontaminazione. Cioè, che no, avete capito dov'è il problema. Chi soffre di altre patologie a Milano comincia ad aver paura di contagiarsi e va meno al pronto soccorso. In Piemonte un migliaio di accessi giornalieri al pronto soccorso e il numero di pazienti in attesa di ricovero, che passa da 276 a 448 in una settimana. Come capite, effettivamente il problema sotto questo fronte c'è. In tutto ciò c'è la politica, politica che, come dicevamo, si divide e discute, soprattutto ad alzare un po' di polverone. Oggi è Italia Viva, avremo ospite più avanti la ministra Teresa Bellanova, che è capo delegazione di Italia Viva al governo. Abbiamo a pagina 15 della Repubblica un'intervista a Matteo Renzi, che dice che il decreto ad Annalisa Cuzzocrea, il quale Renzi dice che il DPCM crea tensioni ma non ferma il virus. Conte non faccia il populista. Conte, che lo accusa di voler fare giochini politici che non può accettare, Renzi risponde: questo modo sbrigativo di rispondere alle critiche mi sembra più adatto a un populista che a un premier. È una tensione che aumenta, ma una tensione che, come ci fa notare giustamente Lina Palmerini sul Sole 24 Ore a pagina 11, può portare a poco. È molto difficile l'idea che si arrivi a un governo di unità nazionale, come qualcuno auspica o ipotizza. Si insiste a guardare verso il Quirinale per trovare una sponda alle larghe intese o benedire un patto che porti al voto entro l'estate. Ipotesi irrealistiche, vista la gravità del momento, che esclude salti nel buio, prima ancora che incostituzionali. In pratica, il capo dello Stato, scrive Palmerini, dovrebbe violare la Costituzione e farsi promotore di una crisi per aiutare chi oggi non trova soluzioni alternative in Parlamento. Ma il paradosso è che a spingerlo a forzare il suo ruolo istituzionale sono le stesse voci che gli contestarono il diritto di bocciare Savona a ministro dell'economia o la convocazione di Cottarelli quando il quadro politico era in tilt e non riusciva a esprimere una maggioranza. E poi c'è il momento che fa notare giustamente Lina Palmerini, che racconta quello che hanno fatto Macron e Merkel, soluzioni fotocopie ovunque che mettono in difficoltà quell'idea che sottintende la nascita di un nuovo esecutivo, quella cioè di dare discontinuità alle politiche. Quando arrivò Monti cambiò il programma, il rapporto con l'Europa, ma questa volta il Covid e la crisi economica hanno tracciato una linea dalla quale è complicato discostarsi, a partire proprio dal legame con Bruxelles. Traffico. Mattino. Cosa ho detto? Ho detto 200 ore che corrispondono più o meno a 5-6 giorni, ovviamente sono 8 giorni, abbiate pazienza, ogni tanto abbiate pazienza. Allora, cosa ancora sulle proteste di piazza, Andrei, e qua tornerei sul quotidiano La Repubblica, che ci racconta di una macchina della disinformazione che è partita e della quale si stanno occupando i servizi segreti. Una macchina della disinformazione russa. Riparte la disinformazione filorussa, Mattarella e il governo nel mirino, ci raccontano Giuliano Foschini e Fabio Tonacci. Seguendo il trito canovaccio di soffiare paura e sfiducia nelle istituzioni democratiche durante i momenti di tensione sociale, la macchina filorussa della disinformazione si è rimessa in moto. E in Italia si concentra sull'ultimo decreto del governo Conte, sulla riunione al Quirinale del Consiglio Supremo di Difesa. Cosa succede? Raccontano Giuliano Foschini e Fabio Tonacci che ci sono una serie di account con la bandierina russa, con alcune indicazioni che fanno pensare che si possa trattare di una propaganda coordinata, che prendono in esame l'ultimo ordine del giorno del Consiglio Supremo di Difesa, quello nel quale si parlava delle conseguenze dell'emergenza sanitaria sugli equilibri strategici e di sicurezza globale, ha l'idea che appunto si possa passare una sorta di militarizzazione o comunque un intervento della difesa dell'esercito in forza anche di quello che sta succedendo nelle piazze. C'è preoccupazione, i servizi stanno indagando, stanno ipotizzando un'azione coordinata. Dice per esempio Enrico Borghi, deputato del PD, che nel COPASIR segue, che è il Comitato Parlamentare di Controllo sui Servizi Segreti, segue dal principio il dossier Covid, è la conferma di quello che abbiamo già avuto modo di osservare nei mesi scorsi, nei momenti di massima tensione, anche sociale. C'è un interesse alla disinformazione, al diffondere notizie false che fomentano i cittadini. Inoltre c'è il tentativo di delegittimare le più alte cariche dello Stato, perché a presiedere il Consiglio Supremo di Difesa da Costituzione è il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e quindi l'attacco va direttamente appunto al Presidente della Repubblica Mattarella. Cos'altro dalla giornata di oggi? Sul fronte di un'ipotesi di lockdown se ne parla un po' dappertutto. A parlare oggi è ancora una volta Agostino Miozzo, che è il coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico in forza alla protezione civile, che in una intervista con Fiorenza Sarzanini dice che bisogna rispettare le regole per 2 settimane o si chiuderà tutto, e se la prende anche con quegli esperti, quei medici che parlano troppo. Ho letto di tutto, soprattutto analisi totalmente errate e disorientanti di pseudo esperti che hanno evidentemente la sfera di cristallo e la bacchetta del mago Merlino, proponendo soluzioni magiche a problemi estremamente complessi. Che siano i politici a criticare le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico mi sembra quasi legittimo, nel pieno diritto. Che siano dei tecnici a dire cose inesatte e fuorvianti è molto meno legittimo. Se la prende dunque Agostino Miozzo per le critiche che sono arrivate appunto da alcuni medici, alcuni esperti a come si sta muovendo il Comitato Tecnico Scientifico, e poi appunto chiede di rispettare le regole oppure si arriverà alla chiusura. C'è tutto il fronte economico. Ieri abbiamo parlato ampiamente dei ristori e vi abbiamo dato conto al Sole 24 Ore un po' nel dettaglio di cosa è previsto. Il Sole 24 Ore oggi ci porta su quelle che sono le conseguenze economiche immediate, no? Allora, da una parte i mercati che ieri hanno tremato, ve l'ha raccontato anche GR24, qua trovate tutto riassunto in un pezzo di Vito Lops a pagina 5, che ci racconta che il giro di vite sui lockdown provoca ribassi intorno al 4% a Milano, Francoforte e Parigi, tonfo anche a Wall Street. Il VIX, che è il cosiddetto indice della paura, se volete poi ve lo potete cercare, potete andarlo a vedere, è un indice che misura la volatilità, quindi la tensione sui mercati, vola oltre 40, che è il triplo del normale. E poi ci sono le vere e proprie prospettive di crescita economica, un'ipoteca sulle prospettive di crescita 2021, ci racconta Riccardo Sorrentino. Secondo lo scenario peggiore della Banca Centrale Europea, l'anno prossimo, a causa di nuovi lockdown, il PIL potrebbe registrare solo un aumento minimo, PIL a livello mondiale uno 0,5%, racconta Riccardo Sorrentino che non era questo lo scenario di base. Le previsioni macroeconomiche, ancora più difficili oggi rispetto ai tempi normali, non partivano dal presupposto della seconda ondata e di un secondo lockdown totale o parziale, una speranza o poco più, perché tutti i grandi organismi internazionali, anche molti uffici studi di banche e gruppi finanziari, hanno elaborato, questo si fa sempre, almeno uno scenario avverso, un worst case scenario, una ripresa autunnale dell'economia era effettivamente prevedibile, persino probabile, e invece appunto si sta realizzando lo scenario avverso, e questo potrebbe portare problemi anche nel 2021. Che cosa succede ancora usciamo ancora dal fronte Covid e occupiamoci di immigrazione. Poi le due cose, come sapete, in questo periodo sono state collegate, a volte, anzi spesso impropriamente. Ci racconta di un nuovo fronte di arrivi Antonio Maria Mira su Avvenire a pagina 13. Calabria, l'altra destinazione, boom di sbarchi a ottobre. Un nuovo sbarco di immigrati sulle coste ioniche calabresi, l'11° dall'inizio di ottobre solo nella provincia di Reggio Calabria, oltre a 3 in quella di Crotone e 1 in quella di Catanzaro. Più di 1000 in totale gli sbarcati. L'ultimo arrivo all'alba di ieri è avvenuto nella zona costiera della Locride, una barca a vela con 77 persone di nazionalità irachena e iraniana, tra le quali 6 donne e 7 bambini, è stata intercettata a largo di Camini, e si guarda appunto con una certa preoccupazione a questa nuova ondata di sbarchi sulle coste calabresi. GR24, ci risentiamo tra poco, ovviamente nello spazio avremo lo spazio con Paolo Mieli, poi sarà con noi la ministra Teresa Bellanova, sarà con noi il governatore, il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. A tra poco.